Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. La mail è sempre la stessa, unabusoalgiorno@radio24.it, così come il blog che curo è sempre lo stesso. Guardie o ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare di sperimentazione e ricerca OGM, quindi prodotti, diciamo così, geneticamente modificati da coltivare e poi ovviamente anche da consumare. Perché il tema torna ad attualità? Perché Futura Agra, un'associazione di industriali prevalentemente nel nord Italia e prevalentemente impegnati in colture che possono essere coinvolte dall'uso di queste biotecnologie, quale per esempio la produzione maidicola, quindi il mais, hanno riproposto questo argomento con forza, dicendo: caro governo, sei inadempiente perché mancano i protocolli attuativi che possano recepire. Ci sono, sono lì fermi, sarebbero già pronti da firmare dal 2005, secondo quanto dice Futura Agra, protocolli attuativi di questa direttiva europea del 2001 che dava il via a questa ricerca. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlarne con il professor Sala, docente di biotecnologie vegetali all'Università di Milano, quindi un ricercatore, un professore di un'università pubblica, un ricercatore pubblico, presidente di Futura Agra, quindi l'associazione che appunto ha ritirato fuori l'argomento, e poi con il professor Colombo, che invece è ricercatore della Fondazione Diritti Genetici, che nel passato non è che poi fosse così vicino, anzi, a questo tipo di innovazioni, ma abbiamo sentito dal professor Colombo che c'è stata un'apertura di credito, e quindi io da questa apertura di credito ripartirei dando il buongiorno al professor Colombo. Buongiorno a lei e ascoltatori. Ecco, che cosa vi ha fatto cambiare idea? Allora, il fatto di non dire sempre no a tutto quello che è nuovo, come ci diceva ieri professor Sala, è come andare in giro ancora magari con le Trabant di memoria, diciamo un po' nel passato, erano quelle macchine che girano la Germania Est, oppure invece vi ha fatto cambiare idea qualcos'altro? C'è un cambiamento di idee, non è una mossa tattica. Noi riteniamo che nel momento in cui questi protocolli sono stati perfezionati nel corso di questi anni, quindi non sono bloccati al 2005 ma sono stati perfezionati, sono state introdotte le garanzie, e noi vogliamo che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte dei ricercatori, un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni che devono vigilare e presiedere questo aspetto della ricerca agricola. Io però ci terrei a sottolineare alcune cose. In primo luogo, questo grido di dolore sulla vicenda OGM biotecnologica è un grido di dolore che viene spesso riportato come se la ricerca to cure venisse bloccata, e in particolare la ricerca agricola. In realtà la ricerca agricola è composta da tante attività, di cui quella biotecnologica è solo un segmento, che però in questo momento gode di una grossa visibilità, di una grossa gran cassa, perché la situazione è più o meno bloccata. Noi anche per questo la vogliamo sbloccare, ma al contempo diciamo che si intervenga su tutto il complesso delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e si coinvolgano i soggetti che vengono meramente considerati come destinatari, come i fruitori finali del prodotto della ricerca, ma che vengano invece inseriti in un ragionamento collettivo, sociale, su cosa e dove deve finalizzarsi la ricerca, e quindi anche capire che sbocchi poi di mercato a questa ricerca, perché ostinarsi sugli OGM rischia di non tener conto che poi i consumatori non ne vogliono sapere. Benissimo. Io aggiungerei soltanto un ultimo passaggio, se mi permette. Prego. Il riferimento anche alle considerazioni che faceva il professor Sala ieri sui prodotti tipici. Io vorrei citare il dottor Ferri, che è responsabile per la Monsanto delle relazioni istituzionali, che nel corso di un'audizione verbalizzata al Senato, a cui ho partecipato anch'io, parlava di costi di ricerca e sviluppo per portare una varietà transgenica sul mercato nell'ordine di 100-200 milioni di dollari. Ora, se questi sono i costi, io credo che il ragionamento sui prodotti tipici vada completamente riconsiderato, e che dobbiamo assolutamente traguardare delle prospettive sostenibili anche sotto il profilo economico e finanziario di questo tipo di ricerca, per cui di nuovo rinnoverei l'invito a considerare l'intero assetto della ricerca, soprattutto di quella pubblica, e capire poi se questa ricerca pubblica deve mettere in mano a soggetti che hanno nella loro finalità generare profitti una risorsa come quella delle sementi, su cui poi è ancorata la sicurezza alimentare del paese. Assolutamente corretto quello che dice, e io do il buongiorno all'onorevole Benedetto Della Vedova, deputato del Partito della Libertà, che ha presentato un'interrogazione parlamentare sulla mancata approvazione di questi protocolli ministeriali. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Allora, innanzitutto la domanda: perché ha sposato questa causa, cioè crede effettivamente nel valore di questa ricerca, è passato troppo tempo, cioè spiega ai nostri radioascoltatori che cosa l'ha spinta a chiedere al ministro Zaia, oltretutto della sua stessa coalizione, che invito a intervenire in trasmissione nei prossimi giorni, a chiedergli appunto che fine hanno fatto quei protocolli. Cosa l'ha spinta, onorevole? Ma guardi, io già nella mia esperienza di parlamentare europeo mi ero occupato di agricoltura e di OGM, che è una questione molto discussa anche in sede europea. Con una visione abbastanza negativa, il cibo Frankenstein, il principio di precauzione, eccetera. E io in quella sede già maturai una convinzione un po' diversa da quella forse più diffusa, ma soprattutto ho maturato la convinzione in sede europea che un paese come l'Italia, che dal punto di vista economico ha una presenza così significativa tradizionalmente nel settore agroalimentare, non possa rinunciare quantomeno alla ricerca scientifica, cioè a stare sulla frontiera della ricerca e della sperimentazione nella filiera agroalimentare. E vedevo quando stavo in Europa che anche paesi molto tetragoni nel rifiuto degli OGM, anche negli interscambi internazionali come la Francia, sulla ricerca in realtà non chiudeva come invece chiudeva l'Italia. Ora, noi dal 2005 abbiamo una normativa con il decreto ministeriale che è stato richiamato, che prevede la possibilità di sviluppare la ricerca non solo in laboratorio ma anche in campo, che prevede una serie di protocolli, di valutazioni, di criteri di sicurezza che sono stati richiamati anche ieri, che prevedeva un termine per i protocolli operativi che sono stati forniti nel 2008, oggi manca, quindi da un anno, dal novembre 2008, manca un ulteriore decreto ministeriale che ratifichi quanto uscito dai comitati tecnici e dia effettivamente il via alla sperimentazione, allora, ecco, in campo, tenendo presente che ci sono regioni come la regione Lombardia che ha scritto in lettere ufficiali: ma noi siamo pronti, abbiamo già individuato le aree, abbiamo già individuato gli enti di ricerca, aspettiamo che il governo si muova. Ecco, ma onorevole, che cosa le fa credere che il suo collega di coalizione Luca Zaia si muova, alla luce del scetticismo che comunque regna in Europa e anche alla luce delle grandissime pressioni, l'abbiamo sentite anche richiamate nel corso di queste due puntate, delle multinazionali? E intanto le chiedo provocatoriamente, ma le multinazionali l'hanno contattata, lei ha contatti, come dire, crede nella bontà del lavoro delle multinazionali? Ma guardi, io, fa politica e si occupa di temi concreti, ha rapporti con gli operatori, anche con gli operatori multinazionali, da Fiat Auto, che ovviamente quando ci sono i problemi inerenti al settore dell'automobile si interessa, contatta, ti fa sapere cosa pensa, alle aziende che fanno telecomunicazioni, a quelle che fanno costruzioni meno perché non me ne occupo, e anche alle grandi aziende che si occupano di agricoltura, certo, e quindi di OGM, ma però non è di questo che stiamo discutendo, perché loro sono interessati a vendere i semi per la produzione o a vendere i prodotti che contengono OGM, ma e noi non stiamo però discutendo di questo oggi, stiamo discutendo di consentire a coloro che fanno ricerca, quei pochi che sono rimasti, ahimè, sugli organismi geneticamente modificati, cioè che fanno ricerca sulla frontiera dell'agricoltura. Ecco, ma lei coltiva una speranza, scusi il gioco di parole, la battuta, che il ministro Zaia venga incontro a queste vostre sollecitazioni, oppure gli interessi in gioco di qualunque tipo, politici, comunitari, industriali, sono talmente alti che probabilmente dovremmo andare incontro a nuovi e lunghi slittamenti? Guardi, io confido nell'intelligenza di Zaia e nel suo rigore istituzionale, nell'intelligenza per capire che al di là di un po' di propaganda più o meno preelettorale, perché è chiaro che se uno va a dire ah, noi dobbiamo mangiare i nostri cibi tipici, cosa sono queste cose, Frankenstein eccetera eccetera, probabilmente strappa un applauso in più, ma sa che si allontana dagli interessi reali dell'economia e anche di quella parte importante dell'economia italiana rappresentata dalla filiera agroalimentare, e lo dice uno che è felicissimo che in Italia si sia sviluppato il settore dello slow food, dei prodotti tipici, non sono due cose che vanno messe l'una in contrasto con l'altra, sono due cose che devono vivere in modo complementare in un grande paese agroalimentare come l'Italia. In secondo luogo confido sulla sua lealtà istituzionale, per cui questo è un adempimento richiesto, peraltro da un procedimento attivato da un precedente governo della stessa maggioranza, centrodestra. Più Lega, quindi io mi aspetto che Zaia dia il via, ripeto, stiamo parlando di ricerca. Bene, io ringrazio l'onorevole Della Vedova per il suo intervento, così come ringrazio il professor Colombo e il professor Sala che sono stati con noi in questi due giorni. Invito ancora una volta il ministro Zaia ad intervenire nei nostri microfoni, l'abbiamo cercato, non siamo riusciti a metterci d'accordo sul giorno. Io ringrazio i nostri ospiti, in regia Roberto Scaltritti e in studio Elisabetta Fusconi, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata.